mentalizziamoci e prepariamoci per il futuro, direi. Mi sembra di assistere, guardando il congresso del PDL, alle riprese di una convention statunitense. Sono cambiate le facce, mancano i palloncini ovviamente, ma l'atmosfera del congresso del PDL è simile a quella di una convention americana. Il fatto è che è cambiata radicalmente, sta cambiando la natura dei congressi di partito. Non sono più dei congressi in cui si decideva e si decide la linea politica. Questo non riguarda solo il PDL, ma riguarda tutti i partiti. Sono congressi di investitura. I processi decisionali ormai non sono processi che prendono corpo all'interno dei congressi, ma sono processi che si realizzano nei mezzi di comunicazione di massa, si decidono con le elezioni. Questo vale anche per il PD, per esempio, le primarie. Le primarie svuoteranno di sostanza il congresso, che sarà soltanto un congresso di investitura, quindi un congresso fatto per i media per attrarre le persone. Questa è la nuova natura dei congressi di partito che ci troveremo a fronteggiare nei prossimi giorni.